Allora, andare e tornare in realtà è un progetto che racchiude un po' alcuni dei brani che ho scritto negli ultimi anni e che fanno parte un po' diciamo, della mia ricerca personale per trovare una voce che sentissi veramente mia per quanto riguarda la musica. Quindi questi pezzi racchiudono un po' diversi stili e diversi generi che ho fatto miei nell'ultimo paio d'anni, insomma. Il titolo Andare e tornare in realtà è un po' un titolo reale perché rispecchia un po' la mia vita appunto degli ultimi anni in cui vado e torno sempre da casa siccome vivo all'estero e anche diciamo una sorta di metafora nel ritorno verso se stessi che è una cosa comunque che ha fatto parte della mia ricerca di cui parlavo prima. E i brani sono insomma variano un po' da mood un po' più malinconici, altri con una voglia di leggerezza maggiore, comunque sicuramente sono riconnessi alle mie origini napoletane, alcuni brani sono infatti in napoletano, altri in italiano. In realtà non solo, perché poi ci sono anche altre lingue che troviamo dentro i tuoi brani, giusto, Anna? Sì, c'è un brano che ha un ritornello in francese, sì, perché ho studiato francese all'università. Senti, questo EP diciamo che possiamo vedere già un po' tutte le tue sfumature, quindi sia appunto quella da cantante, da musicista, da producer, ma anche da grafica, da veramente artista 360 gradi. Quindi volevo chiederti un po' qual è l'approccio alla creatività per te, ecco, da dove prendi tutta questa creatività veramente a 360 gradi. In realtà, per quanto riguarda la parte musicale, io sono comunque nata in una famiglia di musicisti, mio padre è musicista e mio fratello anche, sta studiando al conservatorio, quindi diciamo che la musica è sempre stata presente a casa mia. La grafica è una cosa che mi appassiona da quando avevo 15 anni, ho sempre provato a imparare a usare i programmi che si usano insomma, per la grafica da sola. Poi in realtà il mio percorso di studio è stato abbastanza lontano sia dalla musica che dalla grafica perché ho studiato appunto traduzione e interpretazione a Trieste. Ma anche nel periodo in cui studiavo mi sono resa conto che non era quello che volevo veramente fare, nonostante mi piaccia tantissimo la linguistica, mi piacciono tantissimo le lingue, e quindi ho continuato un po' a studiare da autodidatta anche la grafica, cercando appunto di trovare uno sbocco lavorativo che per fortuna ho trovato e quindi adesso sto lavorando proprio come grafica e mi piace molto comunque conciliare questi due mondi, credo che siano i modi in cui riesco a esprimermi maggiormente, sia con la grafica, l'illustrazione, sia con la musica, specialmente con la musica e curare anche la parte grafica dei progetti, comunque è una cosa che mi permette di avere, tra virgolette, un controllo maggiore sull'espressione creativa che voglio dare alla totalità del progetto, quindi è una cosa che comunque mi piace fare perché è comunque dare un aspetto visivo a qualcosa che ho in mente che altrimenti sarebbe solamente musica. Certo, così puoi esprimerti appunto a 360 gradi, come dicevo anche prima. Senti, invece questo 24 maggio sarai appunto qui a Bologna, live a Porta Pratello. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Raccontaci un po' questo live. Sì, sono molto molto contenta, sarà la data di apertura di questo tour che farò quest'estate per promuovere l'EP. È il mio secondo live, però è il primo appunto del tour. Sono molto emozionata, sono molto felice di essere a Bologna. Sicuramente ci saranno tutti i brani dell'EP, una piccola sorpresa bolognese e anche uno dei pezzi nuovi che stiamo registrando in questo periodo. Perfetto, poi dove sarai? Che ci ascoltano un po' in tutta Italia, così magari ricordiamo le tue date. Allora, per quest'estate sarò il giorno dopo, quindi il 25 maggio sarò al Miami di Milano, poi a giugno sarò ad Arcita al Blendland Festival, poi c'è una data a Udine il 5 luglio, sempre in Abruzzo il 20 luglio, poi un paio di date in Campania a Pompei a Cava dei Tirreni e poi abbiamo lo Spring Attitude a Roma il 14 settembre e in quei giorni anche il Poplar Festival di Trento, però tutte le date appunto sono anche disponibili sui miei profili social. Perfetto Anna, noi non vediamo l'ora allora di vederti questo 24 maggio qui a Porta Pratello. Per concludere l'intervista, visto che ora ci ascoltiamo un tuo pezzo, te lo farei scegliere a te, insomma, quale brano ti piacerebbe trasmettere qui in diretta su Radio Città Fujiko e perché? Ma siccome le temperature si stanno alzando sempre di più e sta arrivando l'estate, direi estate infinita. Perfetto, grazie ancora Anna. Grazie a te, ciao.